Radio Popolare presenta La Caccia, caccia all'ideologico quotidiano, a cura di Felice Accane e Carla Oliva. Buongiorno a tutti, l'indice del programma prevede di parlare di sensibilità, di Otello e possibili rapporti con Tarzan, ma sì, vabbè, di insignificanze varie.